nel volo azzurro. Thank you. la speranza, la gelosia, l'amore, mi fecero soffrir pene di morte, come orde la tua sorte, via chi t'ama e disprezza, tu stanti adorator, serpa la fine.

rincori più bello ti lo divento, ne riadorrendo, ne riadorrendo di colla dal volere. Che tardi più, vedi gli allegri cori di ninfe e di pastori accolti per accrescer la pompa ai tuoi trionfi. Andromeda, tra noi non vecchi più di Megova, il mirarti fatta sposa di Perseo e fuor d'affanni. Dei gravi miei danni quanta pietà ti avesti e mi ricordo creder non ti posso bugiardo adora torti mia fortuna abbiamo perso al tempio e vi si chiudo in presenza dei lumi il vuoto il giorno io quindi nasca l'augurio fortunato d'un amore tra noi sempre beato. Sposa molto, cara sposa, 听众朋友，以上大家所欣赏到的是维瓦尔第歌剧《安德鲁姆达·里贝尔卡》全剧的录音，由克里马斯、肯奇、贝尔罗夫、鲁奇卡尔演唱，维也纳巴洛克乐团演出，马尔康指挥。下面请您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道的精彩节目。